America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ukrainski narod. E, естественно, ucraino руководство. Dmitry Medvedev, avete sentito, il primo ministro russo si è scambiato, come ricorderete, il ruolo di presidente della Russia con Vladimir Putin in visita ieri in Crimea, una visita tra virgolette pastorale, con un piccolo brivido però, perché mentre si trovava in Crimea ha messo un messaggio su Facebook e il messaggio dice: l'Ucraina è sull'orlo della guerra civile. Un messaggio, vi dicevo, un po' da brivido, perché significa che l'escalation è in corso, significa che la tattica della provocazione per indurre una reazione e per poi reagire alla reazione con una invasione è, secondo me, in pieno svolgimento. E qui vorrei aprire una piccola parentesi, perché devo dire che quando ci fu l'annessione della Crimea da parte della Russia, furono in molti a dire: ma in fondo questa Russia, guarda che furbone che Putin, guarda che bravo, ha messo gli Stati Uniti senza scacco, poi del resto la Crimea è in maggioranza russa, quindi è giusto che se l'annetta. Ecco, c'era, come dire, un atteggiamento di critica nei confronti delle reazioni dell'Occidente e di, così, strizzatina d'occhio a Putin, che invece riusciva a muoversi come voleva, quando voleva e come voleva. I miei commenti allora furono piuttosto duri, ho ricevuto dei messaggi su Twitter molto critici: ma cosa stai dicendo? Ma la Crimea è russa? Ma insomma, smettiamola. Ecco, perché il fatto qui non riguarda soltanto la Crimea e la maggioranza della popolazione russa all'interno della Crimea, riguarda il metodo, riguarda come si è arrivati a questa annessione. Di nuovo, in molti dicevano: ma insomma, ma questi sono dettagli tecnici, burocrazie, le Nazioni Unite, ma lasciamo perdere, che si annettano la Crimea e chi si è visto si è visto. La realtà, e lo stiamo vedendo adesso, è che l'operazione in Crimea era un'operazione che mirava all'escalation. Non c'è stata l'escalation da parte dell'Ucraina, delle autorità ucraine, non hanno reagito agli interventi russi, non hanno reagito al referendum, proprio per evitare di dare una scusa di intervento alla Russia. Ma non è bastato, in Ucraina orientale sta succedendo lo stesso, e il messaggio di Medvedev su Facebook lo dimostra. La Russia qui sta cercando l'escalation, sta cercando la provocazione per poi poter giustificare un suo intervento in protezione, tra virgolette, delle minoranze russe. We know who is behind this. Indeed, the only entity in the area capable of these coordinated professional military actions is Russia. E Samantha Power, il rappresentante permanente degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, che interviene in materia con una dichiarazione, vi dicevo, molto diretta, e dice: sappiamo chi c'è dietro queste violenze, le violenze in Ucraina. Infatti l'unica entità nell'area capace di azioni militari coordinate e professionali come quelle che abbiamo visto in Ucraina orientale è la Russia. Come ci fu il sospetto che le bande armate che presero il controllo del Parlamento della Crimea erano in realtà soldati russi, e beh, così c'è il sospetto che i militari che hanno preso il controllo delle stazioni di polizia in Ucraina siano comunque legati in qualche modo alla Russia. A questo punto non è soltanto una dichiarazione di parte, perché è uscito un rapporto delle Nazioni Unite molto chiaro, Report on Human Rights Situation in the Ukraine, rapporto sulla situazione dei diritti umani nell'Ucraina. E subito all'inizio un'affermazione chiave: ci sarebbero le prove secondo cui alcuni dei partecipanti agli scontri mortali in Ucraina orientale arrivano dalla Russia. Ecco, questo rapporto è il risultato delle indagini di Ivan Simonovic, sottosegretario alle Nazioni Unite, e degli osservatori dei diritti umani dell'ONU. Le Nazioni Unite avevano istituito una missione di monitoraggio addirittura in 5 città. Quali sono i risultati? Intanto, i morti che ci furono, 121 morti, 100 persone disperse durante i disordini di febbraio, durante le proteste in piazza, sono stati il risultato delle azioni della polizia speciale ucraina, che rispondeva al presidente ucraino di allora, che rispondeva a sua volta a Mosca, e la polizia speciale e la Berkut. Due, gli attacchi, le vessazioni contro le minoranze russe da parte di nazionalisti ucraini sono stati esagerati allo scopo di creare un clima di paura, di insicurezza e soprattutto di creare questa situazione di provocazione alla quale la Russia avrebbe dovuto rispondere. Numero 3, molti brogli nel referendum del 16 marzo, che si sarebbe svolto alla presenza di milizie russe, con molestie e rapimenti di giornalisti e attivisti che si opponevano a questo referendum. Ecco, questo sviluppo diplomatico fattuale emerge alla vigilia di un importante incontro politico. Domani a Ginevra il segretario di Stato americano John Kerry si incontrerà con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, ci sarà anche il capo della politica estera dell'Unione Europea Catherine Ashton e il ministro degli esteri ad interim dell'Ucraina Andrei Deshtazia. L'obiettivo è quello di allentare la tensione. In realtà la Russia sta già sfruttando questi disordini, e le parole di Medvedev a questo punto hanno una loro coerenza, per deviare l'incontro di domani, dove l'Ucraina presenterà prove concrete del coinvolgimento di forze speciali russe nell'agitazione separatista. Ecco, la situazione, devo dire, è preoccupante, la situazione è difficile, non si può chiudere un occhio davanti a queste ingerenze della Russia in un territorio che non le appartiene. Esiste un contesto di leggi internazionali tutelato dalle Nazioni Unite, esiste la possibilità di discutere in modo bilaterale di situazioni di questo genere e di fare dei referendum, come sta succedendo pacificamente, per esempio, in Gran Bretagna, con referendum per l'autonomia della Scozia. Ma qui siamo andati ben oltre, ci sono contatti ancora ad alto livello, questo è rassicurante, fra Vladimir Putin e Barack Obama, hanno parlato della crisi insieme non più tardi di un paio di giorni fa. Obama ha chiesto a Putin di usare la sua influenza per convincere i gruppi armati filorussi a desistere e Putin dice: ma noi qui ci troviamo in una situazione difficile, i nostri connazionali sono sotto minaccia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, lei da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Neil Young si è lanciato in una campagna su Kickstarter, che è questa campagna di crowdfunding, cioè attraverso internet si lancia una campagna per raccogliere dei fondi con l'obiettivo di finanziare qualche cosa, non importa cosa, qualche cosa. Lui cosa vuol finanziare? Questo nuovo lettore musicale Pono Player, secondo lui è molto meglio di MP3. La raccolta ha raggiunto l'obiettivo di $800,000 in meno di 10 ore. Chi partecipa poi potrà comprare questo apparecchietto a un prezzo di favore. Di Neil Young, che si trasforma in imprenditore, Rocking in the Free World. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!